l'Italia che fa chiamata, Brecco. Egare, buonasera. KK, mi senti qua, Italia che fa chiamata? Operatore Antonio dalla Sardegna, K, adelante. Avanti, avanti, avanti. Attenzione Spagna, attenzione Spagna, copi l'Italia, K. Adelante Navigo, adelante. Ehi, avanti. Ciao Antonio, lo profeta sono, buonasera. Ehi, buonasera già. Come va, come va? Bene, bene. Un po' che non ti sentivo, vabbè, non da tanto tanto. Oia, con questa cosa caricava. Tutto a posto? Più o meno, dai. Come si dice, potrebbe andare meglio, però... viviamo la giornata, dai. Cerchiamo di fare il nostro, il ciccia. Gappa, gappa. Vabbè. Una tribù gana. Come va che sia, sabato domenica. Dai, dai, domani è venerdì, quindi sabato è vicino, dai. Gappa. Oggi comparando lo gozzo, lo bani grattando fatto con le spianate, mai ne hai comparato tu? Boh, no, mi ricordo che un amico, cioè, era in campagna con un amico, praticamente conservavamo le briciole del pane Karasawa e poi magari, sai, sbriciolato bene bene lo usavamo per impanare qualcosa, cioè era buono. No, questo è fatto con le spianate, è fatto, quello di Beccio, ho preso proprio, mi hanno detto che è buono, adesso a fine settimana mi piglio la garra e lo provo. No, dire la verità, il grattugiato di spianata non mi è mai capitato ancora di provarlo, ma probabilmente sarà buono, dai. Mi hanno detto che è buono. Ehi, c'è un po' di propagazione in questi giorni, dai. Spagnoli, tedeschi, francesi, c'è un po' di tutto. Capa, lasciamo stare a Gigi, qua, il letargo, ma vediamo questo, apparecchio. Bene, Meda, bene, Meda. Anzi, già l'otto e mezzo, so. Le giornate stanno allungando. Va bene così, adesso vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni, perché cazzo, insomma, con la allungare delle giornate, insomma, ci sono anche altre esigenze di stare di più all'aria aperta, no? Ma io ti chiedo la prossima guida, entriamo in giallo. Cavolo, se entriamo in giallo me ne andavo Olbia da mezz'oretta. Uiuia, vabbè. No, no, Antonio, no comment, vabbè. Uiuia. Come, vabbè, siamo troppo attaccati, è inutile che ti chiedo la protezione, adesso ero convinto che fosse un altro Antonio, dai. Tu sempre la stessa radio stai usando, sì? Sì, sempre lui. 960 Radio 5. E vabbè, siamo attaccati. E ogni tanto mi sto controllando l'antenna perché l'ultimo vento che ha fatto mi ha piegato il radialino. Infatti l'ho rimesso a posto. Ed è alluminio molto, molto morbido. Fa in fretta a piegarsi. Vabbè, sottile, sottile. Però adesso sembra che stia tenendo. Speriamo bene, dai. Tutta la furata, anche un meglio un'antenna così deve. Guarda, c'è questa Venom che è mondiale. È buonissima come antenna. Sì, sì, l'avevo già adocchiata, ne avevo già parlato anche con Marco e qualcun altro, se non mi ricordo. Sì, sì, è come rapporto qualità-prezzo va bene, poi anche la resa già è buona, dai. E vabbè, adesso ti ripeto, non so cosa va agli enti, quindi quei pochi soldi che mi entrano, insomma, me li devo centellinare bene, quindi ci sono altre priorità prima, dai, poi già capiterà il momento buono e già la cambierò, dai. Papa, da Amazon la ordine. Amazon non è la più, dai birra devi ordinare. Cavolo, con pochi soldi c'ha l'antenna, la signora antenna. Quella con il radiale, una cicotta mi prende, cazzo, c'è una bomba. Sì, ce ne sono, ci sono due versioni. C'è, c'è la mezz'onda, che è quella senza radiali, e poi c'è la 5 ottavi, che è quella con i radialini piccoli da una ventina di centimetri. Sì, ho visto tutti e due, sia su eBay, su Amazon e su, su un altro paio di siti di elettronica, dai. Ciao, non costa tanto, la resa è tanto. Comunque è buona, quella, con quella risolvi tutti i problemi. Sicuramente no, magari no, non si piega come si piega questa. E cazzo che c'è proprio un fuscello, capito? Poi il gerosano che la, l'alluminio una volta che si piega in diverse parti si ammorbidisce, quindi è sempre più soggetto a, a piegarsi di nuovo. Però adesso sì, adesso sta tenendo, dai. Non mi posso lamentare, io ho sistemato il PL che era, c'aveva, un, c'aveva qualche problema, ho sistemato il PL, infatti adesso sta, sta andando bene, dai, perché qualche settimana fa vedevo un laghetto delle stazionarie che partiva così di goipu, senza nessun motivo, infatti mi stavo preoccupando, ho detto bah, mi sa che la radio mi sta mollando, invece poi era il problema del PL su. Avanti Giuseppe. Aspetta che c'è questo qua. Santiago Nova Radio 5. Avanti Canari, avanti, qui la Sardegna che ti copia. Salutone l'amico della Tenerife, ti mando un altro amico di Sassari, che è Gianni, avanti Gianni, senti l'amico della Tenerife. Hola compagno Moreno, buenas tardes, qui Gianni da Sierra Sierra, Sassari, nord Sardegna, ti ascolto molto bene, ti ascolto molto bene, segnale QSB 57 di Santiago e Radio 4, QSL. Copiato Moreno, Roger, 7-3 anche da parte mia e a tutto il tuo nucleo familiare, 7-3-5-1, qua da Sassari, non Sardegna, ti rilancio l'amico Antonio qua, sempre da Sassari, avanti. Kappa, salutoni, salutoni Moreno, qui Antonio Bombolo da Sassari che ti super cordializza, c'è un altro amico, c'è Giuseppe, avanti Giuseppe, Kappa, avanti già. Eia, grazie, con 3,5 sto arrivando a Tenerife. Attenzione Moreno, attenzione Moreno, qui Gianni, Sassari, non Sardegna, mi copi QSL. Moreno, QRM, mucho QRM, QSB segnale alto e basso, alto e basso, non ho copiato lo, il tuo passaggio, se ti è possibile un rapporto di segnale, la mia situazione, la mia emissora è un Super Jupix con 3,5 watt e come radiante, come impianto radiante una boomerang, QSL. L'abbiamo perso, avanti chi c'è in ruota? Kappa, Giuseppe sta parlando. Oh, chi è che mi sta chiamando? Hola. Dove andiamo? Che? Ciao Luca, buonasera. Moreno, attenzione Moreno, Tenerife, non riesco più a copiarti, ci sono altre modulazioni, la propaganda si è aperta e quindi non riesco più a ascoltarti. Comunque rinnovo i saluti 7351 e alla prossima, grazie. Avanti Lu. Hola Moreno, vamos a ver se va Scusciano a Italia che va chiamando adelante. Un segnalito por favor, segnalito Moreno. Segnalito de señal de la radio, por favor. Mi intendi? Ehi, chi è? Un attimo di bianco, se ci siete. Io sono, già sono qua, e devo controllare un computer. Ok. Ora. La propagazione si è abbassata, dai. E Moreno è scomparso. Per un attimo è arrivato Santiago 7-8 e poi piano piano si è farato. Sicuramente si è abbassata, sì. Uia. Aspetta che scaldi un po'. Ma cos'è l'87 è questo, Antu? Sì, è l'87. Conosci tu la Bippi? Ora, che cazzo ti è pigliato? Ma Antu, quello smarmitato è l'arbaracchino. Perché? No, dico che cos'è modificato? No. Original? Originale. Ah, ok. Kappa. Hola. Cazzo gli è preso? Hola. Aspetta un attimo. Certo Giuseppe poco fa che ti stava facendo chiamata. Ehi, avanti Giuseppe. Kappa. Perché dice mi ha telefonato, mi ha detto che c'ha problemi all'alimentatore, ma sempre più forte sono. Cavolo, oh già, sempre più forte mi sento. Qua si affonda scala anche. Io mi arrivo a 9.30, di più non anda. No, di modulazione, sempre migliorando sta. Asciuga. Oh, mi nomi? Ah vai, accendimi. Allora. Vabbè, un pochettino di pazienza, vabbè. Boh, non ho notato grandissima differenza, Antu. Kappa, ma già lo gioco io, cos'è? Kappa, dai. Attenzione, in Spagna, scucci la Sardegna che fa chiamata Kappa. Ma finito i Fabruzzi, sì o no? Ehi, buonasera Claudio. Ciao Antu, ciao. Saluto anche Gianni, mi sembra, vi ho sentito lontananza, Io ogni tanto entro a salutarvi, ma ancora sono in condizioni precarie. Ciao Antu, buona cena. Grazie, è già fatta la cena. E qua si c'era un po' più tardi, dai. L'aria di campagna fa bene. Beh, Felipe. Ciao Lucarie, mi ascolti? Ti ho visto avanti ieri lì. Ti ho chiamato mentre sei salito lì. Praticamente vi smoccato in Piazza d'Italia, dai, in moto. Forse sono andato in banca. Ieri è venuto Stefano, mi ha portato l'ultimo mobile che è avanzato, praticamente tra l'altro ha fatto tutto lui. Pelussi. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Ciao Gianni, buonasera. Per chi mi ascolta, buonasera a tutti. A me ho arrivati a lui i soldi, ne fa darle un altro. Abbiamo fatto l'ultimo, c'era un armadio ancora che era rimasto e lo abbiamo portato via. La adesso vorrebbe dare la mansarda, la prossima settimana nocchiamo e liberiamo tutta la mansarda, i tubi, le antenne, tutte queste cose. Ti ascolto qua, forte e chiaro. E io faccio l'antenna in terra, è a 2 metri, appoggiata al muro praticamente, tassellata, per carità, l'impianto è fatto, però volevo aggiunti altri 2 tubi e non li ho portati. Va bene, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, sono entrato a salutarvi. Ciao! Ciao Cla. Ciao Cla, ci risentiamo. Ciao, buona serata e buon proseguimento, dai, alle prossime. Ciao Gianni, ciao, arrivi fortissimo qua, non c'è problema. Scusate un attimo, abbasso il volume che devo sentire l'audio del computer un attimo. Ciao, qua stai chiudendo, noi siamo qua, dai, ciao. Ciao Darie, la casa di tua madre arriva una bomba qua, va bene, va bene. E io, molto meno arrivo. È un attacco il mio, però ti ripeto, tanto sto usando il baracchino, adesso appena attivo il 430 avevo i controlli più giusti, però col baracchino è leggermente più avanti Luca, capito? Gianni, prova tu, vediamo quanto arrivi. 1, 2, 3, test radio, 1, 2, 3, portante bianca, 3 watt, modulati 5. Grazie, Santiago Nova arrivi, Antonio è sul 9,5, poco meno di Antonio, Luca invece è un po' più alto, quasi 9 più 10, però ripeto, questi segnali sono un po' fasulli, ecco il baracchino, però già ve li do poi precisi, dai. Ciao a tutti, buon fine serata, ciao ciao. Ciao, Cla. Vabbè, allora arriviamo alla Landriga. Non so che la Landriga, io sono più lontano della Landriga, non ti preoccupare. Ah, vabbè, una battuta, Sì, vabbè, lo so, per modo di dire, ma già sono più distante a tu. No, sono alto, sono in zona alta, come altitudine, però sono un po' più coperto rispetto a prima, Ma già sistemiamo tutto piano piano. Ciao ragazzi! Ciao, siccome te lo dici sempre tu, se non pone antenna, non arrivi manca la Landriga, lo dicevi sempre tu, te lo ricordi? Allora, manco da noi via l'Italia arrivi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Alle prossime, Cla. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Anto, guarda, o stai schiacciando bene il PTT, o c'è qualche falso contatto, perché ogni tanto si sente gracchiare qualcosa. Sì che va, arrugginava. Ma che hanno qua adesso? È come se che ci sia qualche falso contatto, capito? Non so se lo stai prendendo bene, oppure è sporco il PTT, quasi che, sia sporco pure, Non lo so. Già va bene. Ah, che bello di titino. Oggi Genio non si è fatto sentire, di solito, a quest'ora magari faceva la puntatina, ma oggi non si è fatto intendere, dai. No, non l'ho sentito, la verità. Genio, da Papa Tango, Lotto Pit, ci sei? Tango! Novello, ma stanno facendo qualcosa di più importante, magari sta caricando le batterie, dai. Stava facendo l'amore, là. Uia. Allora, giù va, tanda. Adesso ripasso all'altro, dai, che è meglio. Sembra che ci sia il PTT un po' sporco, Antu. Per cui gracchia, ogni tanto gracchia e le parole si sentono spezzettate, mi. Ma veramente? Cazzo, se te lo gioco di zendi, se no non te l'avrei detto, no? Secondo me è che ti sta durando in tutto. No, negativo, è proprio un problema di contatto. Vabbè. Sembra che stia andando adesso. Va bene, dai, io passo all'altro, dai. Io rimango sempre con lo stesso, non aggiù altro. Eccomi qua, sono arrivato. Già si sente la differenza, dai. Vediamo se c'è ancora Luca, se ha finito di smanettare il computer. Luca? Vabbè, sono un po' vedendo, il ricorgente della Ferrari. Già lo so, dai. Un'altra parrocchia. Sto già un grido via. Avanti compagnero. A risenti sotto. Eia. Sì, ogni tanto il segnale sale e scende, poi ci sono anche rumori di propagazione, insomma. Ho provato sul 52 poco fa, sul 12 dai. Sul canale internazionale c'era un po' di aburotto. Questo va. Il 52 cos'è, un canale internazionale? Il 27555. Io non credo che ha del casino in Kiwi. Francese e spagnolo, dai, poi anche, ho sentito anche qualche tedesco oggi. Dal Portogallo ieri o avantieri sul 30, sul 32 mi pare. Lo vedo. Eia, in LSB. Loro stanno intorno a quei canali lì, 28, 30, 32 in LSB, proprio dal Portogallo. Eugenio! Mimì, che pardon è? Ciao Eugenio, infatti ho provato a farti chiamata, ho detto va, oggi non è entrato, magari sarà impegnato. Niente, mi manca a fare la pulca, tac! Sono 3 anni, è possibile stare 8, 7 e mezza, 6, 7, 10. Ehi, bene, ma te la propagazione, gli spagnoli come ti arrivano forte? Sono già mattelli, mi stanno uccidendo, a me arrivano forti. Ehi, ce la faccio a superarli, sì. Io già li passo. Aspetta. Sì, li passate tutti, però già tutti li porti dietro. Anche cosa, anche Antonio se li porta dietro. L'unico che c'è pulito di più è come sempre compiuto. Ho capito. Ascolta, ci stava cercando un appalino Alfa 1. Per quell'apparecchio che tu stavi vendendo, mi sembra che era. Quindi, vabbè, quando lo senti, chiedilo, non c'è problema. Sato lui entra, mi sembra che entra dopo pranzo, adesso mi ricordo che magari a quest'ora, non lo so, se è già entrato, io sto appena rientrando, la verità. Natalino, canale 10, sì. E io. Ok, come lo so, i gassi. Non lo so, quello è il Galaxy, sì, vabbè, lui c'ha un coso, un Galaxy c'ha, ma ti stava cercando, adesso non mi ricordo per che cosa, comunque chiamalo, al limite se c'è all'ascolto, domani mattina oppure domani sera, adesso io non c'ho il numero di telefono, solo gli avrei chiamato al telefono e avrei parlato assieme la verità. Parla con lui, non c'è problema, là che io sto cucinando adesso. Dopo devo usare un coso, non vibratore, ma devo usare un laser. Quindi ho portato un pazzo di fronte per vedere se funziona, ma ho trovato una mondezza. Sembra che accenda, fa una luce rossa o una luce verde, triangolare. A che dici? Natalino. Ah, va bene, ok, dovrei avercelo il numero di Natalino. Se mi dà il consenso, magari glielo giro io, dai. Ehi, ciao Alessio, buonasera. Ehi, saluto anche a te, buonasera. Chiamo, non c'è problema. Chiamo Natalino, due secondi adesso, poi ci guarda che c'è coso in baracchino e così parlano assieme, non c'è bisogno di usare manco telefono, non so l'altro. Infatti già si sentono, non è quello il problema. Non è chiamare al telefono, mandami il numero di telefono. se è il numero di telefono suo, qual è il problema? Vabbè, comunque sì, adesso faccio un attimo di becco perché sto cucinando, sto facendo la, il puddu e anche il coso, sto cucinando, quindi sono incasinato. Allora ci sentiamo fra un po', appena è cotto tutto. Adesso devo beccarlo col vino, adesso il pollo. E poi ho fatto anche il riso. Ma l'imbriaggio il vino? Ah no, l'ho beccato col vino mio. Costa poco dallo spin, 2 euro. Sta arrivando a lui, che si tu aggiungi? Pugnazzirriaga. Allora, fa un passaggio che ti do un controllo. Aspetta che attacco anch'io. Guarda un po', il parito. Eugè, negativo, non ce l'ho il numero di Natalino, quindi ero convinto di averlo, ma non ce l'ho. Vabbè, lo fai, già lo becco, un soccorso, un mattino. Ok, un attimo, dammi il controllo come sto uscendo io invece, che sto pompando con lineare. Come sto uscendo oggi? Perfetto, come c'è? Il tuo segnale da 5 passa per 9. 3 più 6, 5. Aspetta, controllo un secondo se c'è il telefono in cucina. Io metto il telefono, così lo faccio entrare qua. Aspetta 2 minuti e ti do una risposta veloce. Se va veloce devo andare a cenare. E via, 2 minuti, là. Ora, ora, Ciao di Galeria, di Gida Mattelli, cambio! Oggi apri la foto, te l'ho mandato io! Eugenio! Eugenio! Si chiama Eugenio, ehi Eugenio! Ehi Eugenio, guarda che te l'ho mandato io! Ehi, adesso guardo, vai, grazie! Vai, sta andando a cenare, vai, vai, vai più facile, ciao! Ciao Eugenio! Ciao Luca, mi comino, ok, sta a posto? Ehi, ehi, tutto a posto, niente ordine. Sì, sto controllando il computer. Ehi, ehi, va, si può aspettare che ci sia per fare la cena, ciao. Ciao Gino, buona cena, ciao. Ciao Genio, buona carica, dai, alle prossime. Luca. Borgia. Un'informazione. Una domanda. Non è che per caso avresti delle RAM DDR, non due, solo DDR per dei portatili? E DDR quali? Guarda una foto. Allora ti spiego, mi hanno dato un computer l'altro giorno, un vecchio Acer, che praticamente monta le RAM DDR, mentre quelle che c'ho io sono DDR2. E quindi sono incompatibili. Ne ho diverse, ne ho da 512, da 1 giga a 2 giga, però sono DDR2. In questo Acer, visto che è adattato, ci andavano solo le DDR. Volevo sapere se avevi qualcosa tu. Dovrò controllare, qualcosa ce l'ho di sicuro. Sono le RAM di portatili, quelle piccole. Hanno una dicitura, sai, c'è scritto il valore, poi c'è il DDR e poi a seconda del tipo di RAM e soprattutto dell'anno di produzione, sai, variano in base alla, insomma, già mi hai capito, dai. Perché in questo Acer ero convinto che ci stessero le DDR2, invece il computer non è molto recente e quindi non erano compatibili. Nel caso, sempre per questo mio amico a cui ho regalato questo vecchio Acer, mi servirebbe un banco da 1 giga. Guarda se magari te lo ritrovi e eventualmente se ti va ce li possiamo anche scambiare, perché io ho diversi banchi ma sono tutti di DDR2. Ne ho da 2 giga, da 1 giga, da 512, ne ho, avrò 5-6 banchi RAM in tutto, dai. Ma già, se non mandi la foto, così io vedo quale modello è. Ho capito, dai. Ti mando, al limite ti mando una fotografia e così ti fai un'idea di quello di cui ti sto parlando, dai. Niente, vabbè, ti mando la foto e poi al limite mi fai sapere se si può fare qualcosa, così almeno lo facciamo appena più veloce, dai. Torniamo anche da 8 giga di esatto. Ma questo è, te lo sto dicendo, è un computer, è un vecchio Acer del, sarà 2005, 2006-2005, cioè figura di massimo può ospitare due RAM, però installati ne ha solo uno, e quindi ha uno slot libero. Ci sei? Ehi, a che? Sto parlando a cosa? Tu vicino in zona. Spero che chiama Palino, che sono venuto a sparire perché cavolo, sappiamo poco tutto. Avanti Alessio, dimmi. Ehi, ha un telefono di Natalino, l'ho trovato. Aspetta, lo chiama a cosa? Al telefono e lo faccio entrare a baracchino. Due minuti. Ho dato io il numero. Ah, io ho tutto, allora va bene, allora, ok. Capa, perché era, come si dice, perché devo andare dal baracchino, capito? Va bene, va, non c'è problema. Se la becchiamo prima, ho detto, entra, Natalino, due minuti. Che ti voglio, vabbè, se l'hai già fatto tu non c'è problema, non cambia nulla, è a posto, vai. Allora io metto l'uovo a controllare i fornelli che sto cucinando, se no il pollo piglia a fuoco. Poi potrei imbriacare pure il vino. Se non ho messo ancora il vino, ci ho messo la cipolla, sono al primo stadio, hai capito, devo ancora farlo ad isolare, roba leggera, una volta che l'ho isolato poi ci metto la cipolla, il vino, dopodiché ci metto, come si chiama, l'acqua e a posto, e cucino da solo. A lei, ma attaccato sì? Ehi, attaccato so. Già si sente che sei un po' saturino, no? Sei quasi sul più del 30. Ehi, sono bravo. Fondo scala i watt, sono fondo scala adesso. Capa, mamma, come a me non può mai arrivare. Vabbè, vado a cucinare, va. Ci sentiamo fra 10 minuti o 4 ore, dopo di sistemare il pollo, poi rientro. Lascio a voi la custodia del canale. Andate, dai, io ragazzi vi saluto. Dai, ci sentiamo alle prossime. Vi saluto. Per oggi va bene così, dai. Saluto Alessio, Luca, poi appena mi viene bene fate la fotografia, te la mando. Saluti a Genio, Antonio e agli ascoltori, dai. Ci sentiamo quanto prima. Buona serata e tante cose belle. Bye bye. Ciao, ci sentiamo. Ciao Gianni, alla prossima. Ciao già. Io faccio bianco un attimo. Ci sentiamo dopo. Bianco, lascio un quadro. Bene, mi sono comandato da raglio con la frutta. Quanto volte c'è nato? Sì, è gelato, siccome a me mi piacciono da morire, me li compro sempre a Corte Santa Maria, il pacco quello dell'Arborea, quello dove ci sono tutti i cosi. Guarda, ma ne vado matto. Capisci? La musica. Chi l'ha messa? Io. Ah, capo. Che non sei io? A computer, tu. Per provare l'audio di un computer. Allora, risultato dei problemi. Non è possibile attivare la tua copia di Windows se si vuole vedere connessa a internet. Connessa a internet. Era finto quel biscottino. Ma poi il biscottino. Ma è bella. ciccita, è la ciccita. Si può fare un gambo giallo a Ede. La piccirigola si porta gialla, o dei cinesi. Appunto. Ma che c'è un vaccino, ma non è che se muove l'ovino presto, no? È vero, come? Se muove a qualcosa di strano. Ma più sicura, La buona alcuni nici, minga, ma stai facendo, mia. Non ci vuole più. Qualcuno di chi ci ha detto che ci sono cose che fanno animare, mi. E va. Ehi, non lo so. Ho preso 10, mi riguardo, cazzo, non ho comprato più nulla se mi fosse 10, che c'è ancora a fare male, cazzo. Cazzo, diamo le volte lo vaccino. Mi ho un po' di mia carenza, perché? Però signora ha detto, ho visto due ragazzi tutto a posto che stavano vaccinando. Andiamo a se così, un poco italiano, un poco strano. Uia, è per carità. Uia. Mamma. Cazzo, madre broncana, sono stanco. Cazzino, ragazzi. Domani è venerdì, meno male. Uia. E io sono contento. Si sta abbiamo fatto la conferma di mettere Windows 7. Windows 7? Sì, perché c'è 10 ma non c'è la licenza. Ma tu ce li hai così per metterli? Tutti così per programmare? Come fa per programmarlo? Con la licenza. Ah, ho capito. Stavo dicendo, io ho notato che nel computer, oltre che esserci Windows, c'è anche un'altra cosa, cioè... Che cosa c'è? Mac, mi pare. Mac? Oh, qualcosa del genere. Io c'avevo un portatile, che oltre a esserci Windows c'aveva anche un altro programma. Vabbè, Mac è da Apple. Oh, non me lo ricordo, l'altro, come si chiama l'altro? Linus, forse. Linus potrebbe essere. Ah, Linus, sì. L'avevo provato, ma non è un granché. No. No, ma mi pare che tutti i computer hanno il doppio programma. Ecco, già in questa posizione, ok. Sì, dovrebbe partire. Cappa. Bisogna essere aggiornati, che ma dico, ma trovo tre paghi, cioè cosa è? Per avere quelli tu li paghi, vero? Sì, certo. Poi tu al cliente lo fai pagare. No, glielo regalo. Ma buffumenti, sì. Faccio opere di beneficenza. Sì, allora andate tra banani, Edu. Cosa? Opere di beneficenza, il lavoro ci paga. Opere di beneficenza. Ah, così è. Sono male gli occhi. Adesso sono andato al controllo, al dentista. Va con questa castagnata. Che carità, dopo cari sono qua. cioè se qua ti chiedono adesso un lavoro da 10-12 mila euro, all'estero è la metà, 6 mila. Ah, sono una massa di ladri, insomma, poi butta sono pieni di incassi. Pure un ghiso di chi è già morto. Se voglio fare un lavoro fatto bene, mi ha domandato un po' qui di altro, un bel, un bel di su. Ah, che vado a cagare. Vai, infatti. Così butta la maglia a parete. Ma tu pensa che un lavoro completo, cioè parliamo delle due arcate, non so te sopra, o ti bastano quasi 30.000 euro. Che sono 60 milioni delle vecchie lire. Mamma che. Mamma che suso. Ci vuole andata da lira minimo. Avresti pagato fai 20 milioni là, per fare il lavoro. Ma non rimango di gado. E non sono praticamente di 10.000 euro e 20 milioni di una volta, capito? Ma non è giusto a prendere in giro la gente, veramente. Per essere abbia in culo. Va. Noi ci affetta. Se ne può fregare di meno altro. È un casino. Troppi soldi, troppi. Poi con la crisi che c'è, non la passano qualche prezzi, Allucinante. Chi sa niente da giù lui che sono pieni di gas e di cose, per carità di Dio, spennano la gente e basta. Un casino, è un casino. Te lo ricordi tu già, tu il nome della ragazza, della compagna di Gianni? Cosa? Il nome della compagna di Gianni. Non me lo ricordano. Vabbè. Oh Lu, io chiudo, dai, sono con drumente. Buonanotte. Ehi Anto, dai, ciao Anto.